Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati a Radio Alma, Brussellando, Maridia ai microfoni, in compagnia di Georges Laurent e di Dani M, in regia. Ce ne sono due, dimmi quale. Devi cambiare il microfono. Senza microfono? Il mio microfono non va? Vai Georges, prova, prova. Provi. Ah. Ecco, visto Giorgio? Ora ho la mia voce. Mi ero preoccupata. Sono rimasto senza voce. Eh sì. Sono rimasto senza parole da questa presentazione calma, tranquilla con Georges Laurent. E mi stavo chiedendo, ma chi è questo tizio? Ma chissà chi è Georges Laurent. Ma avete notato che nello studio le luci sono sempre più soffuse? Sì, questo studio è sempre più. Ha un'atmosfera sempre più intima. Tra un po' accendiamo anche questa lucina rossa qua, poi ecco, vai. Bravo, la luce rossa. La settimana prossima verrò con le candele, così. Una trasmissione a lume di candele. Beh, dopo il periodo pasquale. Se manca, se la luce manca, fu. La resurrezione. Fiat Lux. Fiat Lux. E non è un modello di macchina. Magari è un tipo di luce. Magari un tipo di luce. Magari, volendo, insomma. Ma evitiamo di essere blasfemi questa sera, perché insomma non è proprio opportuno come momento. Ringrazio tutti voi, ringrazio tutti coloro i quali in questi giorni, soprattutto in particolare, ci hanno scritto a Brussellando. Sono molto molto contenta perché abbiamo ormai quasi completato il nostro palinsesto per quest'anno. Ho giusto lasciato un paio di settimane ancora così vacanti, in maniera tale da poter ancora presentare qualche sorpresa. Quindi veramente ringrazio tutti voi, perché se non ci foste, quindi a tutti i nostri, innanzitutto ascoltatori che ancora continuano a complimentarsi con alcune delle nostre puntate, e agli scrittori, ai poeti che continuano ad essere entusiasti della nostra partecipazione. Volevo anche ringraziare... Wow. Degli amici. Ma scrivono anche che Georges Laurent dovrebbe stare zitto? Scrivono che invece Georges Laurent dovrebbe leggere di più. Poi c'è stata anche un'ascoltatrice che ci ha chiesto delle tue immagini, però non gliele abbiamo date. Delle mie immagini? Sì, perché ha detto che hai la voce molto sensuale. Lo so, però purtroppo le mie immagini sono persino su YouTube, ma non dirò mai dove, come, quando e perché. Beh, questa sera, mio caro, ti sei rovinato da solo. You George. Poi non dire che noi non ti proteggiamo, perché dalla regia ce la mettiamo tutta. Se poi tu pubblicamente, allora amiche, amici, amiche soprattutto, vi invito a fare questa ricerca. È una ricerca che si può fare magari navigando. Così scoprirete Giorgetto facile facile. Brussellando.blogspot.com, c'è cioè un'intervista. Ecco, se metteremo le immagini di Giorgetto sul nostro blog, esploderemo il blog. Intervista che sta andando, devo dire la verità, discretamente bene. Sì, devo dire un'intervista la verità, anche divertente. Fu un'intervista poi tutto sommato così lanciata out of the blue, insomma, sì, dopo una delle nostre puntate. Io ebbi il ruolo che mi spetta, cioè quello terziario. Cioè merdi uno spazio e poi ci sono io. È assolutamente falso. Ecco, vedi, pure la cuffia si è ribellata qui in studio. Assolutamente falso. Merdi. Prima. Ma no, è perché Meridì è così, cioè, è così in alto, che insomma ci vuole uno spazio in mezzo, quindi primo, secondo non c'è, e il terzo. Viene da sé. Cosa mi fa venire in mente una volta, quando, questo ve lo devo raccontare, questo piccolo nanetto, come diceva Sani Gesualdi, per chi se lo ricorda, fece una gara nazionale e non arrivai neanche tanto male, nel senso che arrivai quarto. Solo che per una cosa, strana coincidenza, cominciarono a dare le coppe e le dettero al primo, al secondo, al terzo e al quinto. E perché a te no? Non si capì bene. E poi dissero, perché mancavano le coppe. Beh, allora 1, 2, 3, 4. No, perché il quinto era un amico di quello che aveva organizzato l'evento. Ma era un evento nazionale. Cioè, e Giorgio non era una sagra. Ecco, è rimasto traumatizzato. Incredibile. Ci spiegano grandi cose. Fu incredibile. Così che abbiamo svelato gli arcani. Scusa, ma prima di passare all'agenda, vogliamo dire due parole su leggere? Allora, volevo ringraziare. Eh sì. Gli amici e le amiche che hanno reso piacevole questa serata venerdì scorso, venerdì 26 marzo, come avevamo già annunciato il 9 marzo con Alberto Schiariti, che è stato promotore e organizzatore di questa iniziativa, Bruxellando ha aderito. E volevo in particolare ringraziare Giovanni e la sua compagna Katia o Katie, per aver effettivamente reso ancora più straordinaria la serata di venerdì. Uno, perché abbiamo scoperto effettivamente dei talenti che non immaginavamo, e due, perché insomma abbiamo avuto modo di interrogarci su tante cose. Noi speriamo che, se Giovanni è all'ascolto, se Giovanni e Katie sono all'ascolto, ovviamente vanno i nostri migliori saluti, e speriamo anche che con la puntata di questa sera, puntata che è eccezionalmente dedicata alla poesia, sapete che ce ne occupiamo molto raramente, però l'autrice, la poetessa che è nostra ospite, lo è già stata in versione di scrittrice lo scorso luglio. Esce quindi con una nuova pubblicazione e noi siamo felicissimi di averla nuovamente nostra ospite, perché ci racconterà che cos'è questo canto di una ragazza fascista dei miei tempi, dice lei. Anna Lamberti Bocconi è la protagonista e l'avremo tra qualche minuto ai microfoni. E, come dicevo, noi difficilmente parliamo di poesia perché abbiamo deciso di occuparci prevalentemente di letteratura, però ci sembra giusto poi rendere omaggio e tributo ai quanti riescono ad esprimersi ora nella prosa, ora invece nell'arte più difficile, che è proprio quella della poesia. E prima di passare quindi a questa parentesi, volevo ricordare un evento che non avrà luogo a Bruxelles, bensì a Barcellona. Pensate, prossimamente, tra due settimane, ci sarà la prima crociera letteraria. A bordo scrittori, appassionati di lettura e tanti libri. La destinazione quindi finale, le Ramblas, che si trasformeranno in un enorme mercatino. E quindi praticamente il 21 aprile, per quanti volessero, da Civitavecchia, destinazione Barcellona, ci sarà la possibilità di partecipare alla prima crociera letteraria che solcherà le acque del Mediterraneo. Un bastimento carico di libri e di scrittori che declina in versione culturale la più tradizionale forma di turismo di massa. E il 22 aprile, quindi, ci sarà un intero giorno di navigazione fino al 23, quando si giungerà a Barcellona, e si potrà festeggiare San Giorgio. Il 23 aprile coincide quindi con la giornata mondiale del libro. Ora ne parliamo un po' più tardi, perché sono molti, molti segreti da svelare, però Dani M. dalla regia ci segnala che la nostra ospite è già qui con noi, quindi Anna! Pronto! Ah, benvenuta, soprattutto bentornata! Grazie, grazie, sono contentissima di essere tornata. Ah, e noi pure, perché insomma siamo molto oltremodo felici, perché parleremo della tua ultima fatica letteraria, e questo ci rende oltremodo felici, perché riusciamo a parlare, non dico modestamente in anteprima, ma quasi. Poi correggimi se sbagli. Quasi ci siamo, fuori da Milano i primi, fuori dall'Italia anche. E quindi insomma siamo effettivamente contenti di poter dare questa sera la possibilità sia ai nostri amici e amiche ascoltatori, sia a coloro i quali poi avranno modo di ascoltare e riascoltare il nostro podcast. Sì. Allora, innanzitutto, più che farti i complimenti, non so nemmeno io dove cominciare, perché... L'hai letto? Assolutamente. Te l'ho mandato nel file, no? Sì, l'ho letto effettivamente in due riprese e ci sono tante domande. Prego, sono qua apposta. Allora, partiamo dalla domanda più semplice, così insomma l'emozione la mandiamo via e insomma le parole poi sono come le ciliegie, no? L'una tira l'altra. Meno male. Partiamo dal titolo, quindi Canto di una ragazza fascista dei miei tempi. Svelaci un po' qualcosa in più proprio sul titolo. Certo. Su questo titolo, che infatti è un titolo complesso, un titolo che già racchiude un po' la storia. Allora, innanzitutto devo dire quali sono i miei tempi, perché i miei tempi sono questi, sono il 2010, ogni giorno che viviamo sono i miei tempi, ma in senso più così, i miei tempi sono, io sono nata nel 1961, sono una ragazza grande, mi giudico tale. Allora qui immaginiamo un po' gli anni 70, oppure anche Sì, che io in realtà ero una ragazzina, no? Però ero una ragazzina ricettiva e vedevo delle cose, sentivo un clima veramente così torrido, diciamo, di lotte, di ideali sbagliati, di passioni perdenti e di tutto quello che c'era in quei formidabili anni, come li ha definiti Mario Capanna, e quindi io indico i miei tempi, i tempi in cui in realtà ero piccola, però vedevo con gli occhi grandi, mi spiego. Una ragazza fascista perché ho immaginato, qui ho dato voce a un personaggio da me inventato, che però ha qualche ispirazione reale, di una ragazza neofascista che fa una brutta fine, di una terrorista, di una persona così gettata nella storia, malgrado sé, come in fondo sono tutti, ecco, ma è proprio una ragazza, quindi non ho messo una neofascista, ho messo canto di una ragazza fascista dei miei tempi, cioè una persona con un destino distorto, perdente, brutto, diciamo un destino sbagliato. Non voglio parlare tutta la trasmissione del titolo, però anche se potrei farlo. Assolutamente, però non c'è solo la ragazza, perché sai, ci fosse stata solo la ragazza, ecco, quindi abbiamo... Infatti, perché, diciamo, l'architettura, questo è un poemetto, è un poemetto in cinque canti, tutto in endecasillabi, però è una narrazione benché scritta in forma poetica, e c'è una costruzione sotto, ovvero questa ragazza fascista dei miei tempi è morta, ha fatto una brutta fine, come vi ho detto, e dialoga col secondo personaggio, che sarebbe la poetessa, che mi assomiglia abbastanza, anzi potrei dire che sono io, dialoga con la poetessa, la quale le racconta quello che vede giù, qui, oggi, e le racconta di altri personaggi, di altri ragazzi neofascisti di oggi, infatti come personaggi c'è questa ragazza qui, la poetessa, poi c'è compare la madre di questa ragazza, poi compare un ragazzo neofascista molto romantico, molto idealista, anche lui che sbaglia completamente tutto. E poi ne compare un altro invece popolare, proletario, che è un ultra dell'Inter. E poi chi compare? Poi compare un coro, diciamo che come un coro. Questo libro è stato definito una specie di Spoon River, così ha detto l'editore. Io non ci pensavo, ma potrebbe anche esserlo, perché ognuno di questi personaggi racconta la sua storia. Cioè l'artificio del dialogo tra questa prima ragazza fascista dei miei tempi e la poetessa serve come cornice per disegnare altre storie, che sono tutte accomunate dall'essere passioni perdenti, come dico io, dall'essere dei destini stracciati, così inconsapevoli, buttati nel mondo. E poi mi sono anche accorta, e questo è interessante perché me ne sono accorta quando l'ho finito, ma invece voi lettori penso che lo cogliate, che c'è una grossa accusa, diciamo, è presa di mira la figura dei genitori. Sì. I padri, la famiglia, questo ruolo devastante che può avere la famiglia in ogni destino sbagliato, e io questo lo dico non perché ce l'ho, io ho avuto, perché mia mamma non c'è più, e questo c'è scritto anche nel libro, ma mia mamma bravissima, mio papà bravissimo, una famiglia anche privilegiata dal punto di vista così degli affetti, eppure riconosco che è un'istituzione terribile. Chissà chi non ce l'ha avuta, brava. Costruiamo quindi i pezzi. Abbiamo la ragazza che apre il racconto e decide di indirizzarsi alla poetessa. Ti sento male, pronto? Pronto? Mi senti meglio? Sì, ora sì. Allora, la ragazza apre il racconto e fa tutto il suo canto lungo. Poi però si indirizza, sì, poi ne leggiamo, lo leggi tu, poi vediamo Giorgio, insomma un passaggio in particolare. Però il trait d'union che mi sembra di capire poi in tutte queste storie che parallelamente poi si incontrano, a volte si allontanano, a volte poi hanno punti in comune oppure divergono, è che a fronte di questi malesseri, a fronte di questo disagio, prima c'è la ragazza che tu la definisci fascista, poi c'è il ragazzo forse borghese che racconta di questa sua prima sconfitta amorosa, se poi di sconfitta si può parlare. Poi c'è lui diventa anche di vita, perché esatto. Come una capitolazione totale. Esatto, però in tutto questo quello che mi sembrava di capire è che c'è comunque la figura protagonista, che è quella del poeta o della poetessa, come in questo caso. Quindi mi sembrava di cogliere, però poi correggimi se sbaglio, come se nonostante tutto, nonostante magari alcuni squallori, oppure sconfitte, oppure disillusioni che ciascuno di noi penso abbia vissuto almeno una volta nella vita, la poesia riesca ancora ad essere un po' una sorta di nave che riesce ad accompagnare questo nostro viaggio. Quindi era questo il messaggio che tu volevi, insomma, indicare rispetto poi a questi diversi fallimenti che si ritrovano ora nella famiglia, ora nella società, che non riesce poi a interpretare i sentimenti soprattutto dei più giovani, perché mi sembra di capire che descrivi comunque da un lato in primo piano i giovanissimi, dall'altro poi, se va nel profondo, c'è la storia della madre, che a un certo punto si racconta, che racconta anche del padre, quindi queste figure più o meno subalterne rispetto al testo stesso. Sì, queste sono, diciamo, delle comparse. Il padre di questa ragazza non parla mai, la madre ha un inciso che racconta di quando a sua volta lei era una ragazza, l'incomprensione totale a sua volta. Io una volta sentii una frase intelligente: siamo tutti vittime di vittime. Ecco, e in questo la poesia, come mai la domanda, infatti la domanda è ben posta, perché, se poi mi permettete di leggere l'ultimo pezzettino che dice la poetessa, si capisce bene. Io non ho voluto dare il messaggio che la poesia è una possibilità di salvezza. Io ho voluto raccontare una storia dura, ho voluto raccontare, certo, appunto una storia nera. Questo non è un gioco di parole, ma di come si può veramente perdere, di come si può veramente andare allo sbaraglio pur conservando una briciola di innocenza, che poi non è innocenza, perché insomma questa sparava e faceva i tempi del terrorismo, l'ultrava va a fare i pestaggi. Cioè, da un punto di vista proprio profondo, però siamo tutti sulla stessa barca, no? Persino questi ragazzi qua, persino, e lo dico, uno mi ha detto, un critico, è uno sdoganamento della destra. Assolutamente no, non è un discorso politico, è un discorso esistenziale, è una specie di compassione ampia. E io mi ritengo più fortunata, cioè io sono una poetessa e non sono una terrorista, ma magari bastava poco e lo ero, non lo so, anche perché la poesia è comunque una forza eversiva, ma adesso non voglio deragliare. Vero è che a un certo punto, qua nel finale, no, io dico, sì, io, vabbè, non stiamo a fare la finzione, questa poetessa sono proprio io, e dico, io ho scritto versi e versi, tanti e tanti, e con loro vi voglio salutare. Quindi questo lo dico dopo che ho raccontato la storia di tutti quanti, no? Faccio questa specie di congedo, no? Sì. Io ho scritto versi e versi, tanti e tanti, e con loro vi voglio salutare, con i miei cardi, i tram, le bestie, il vino, la vita che mi basta a non mollare. Cioè quel po' di vita che io ho la fortuna di poter recepire, di poter esprimere, di poter sentire, e così mi basta a non mollare. Poi, mentre invece questi ragazzi tutti quanti in un modo o nell'altro hanno mollato. Anche da un punto di vista linguistico, siccome il lavoro è lungo, a volte ci sono delle espressioni che ritornano così per insinuarsi, no, nella mente del lettore. Per esempio la ragazza fascista a un certo punto dice mollavo io e non me ne accorgevo. Sì. Cioè loro tutti mollano, loro anche se hanno come motto boia chi molla, mi viene in mente ora, fare avere un destino così cranio a cranio al mondo, come c'è in un verso. Sì. La poetessa invece ha il privilegio di poterle raccontare queste cose, di poterle guardare da un distacco, sempre dolente, sempre emotivo, sempre tutto quanto, ma è una specie di specchio in cui in fondo va a finire meglio. Ecco. Quindi poi io parto a parlare, poi ogni tanto non so se devo fermarmi o no. No, no, è che è bello, no, guarda, non ti preoccupare, perché riusciamo a fermarti. Se abbiamo bisogno di dire qualcosa, ti fermiamo, non ti preoccupare. È che bene. Mentre parli, io sto scrivendo, allora non ce la faccio a starti dietro, quindi parla più lentamente, per piacere. Perché insomma sei troppo stimolante, allora stavo cercando la penna. Viva nella mia tanta carne e tante ossa a fare la presentazione alla Libreria Italiana di Bruxelles, questo me lo porto in mente dalla scorsa intervista. Ci dobbiamo organizzare, dai, siamo sulla buona strada tutto sommato. No. sì, sì, poi devo fare un libro ogni 2 mesi, così faccio sempre, così ci chiacchieriamo sempre. Questo, guarda, ci trovi sempre veramente al tuo ascolto. Parliamo di qualcosa di serio. Sì, qua, allora, volevo... Ascolta. Volevo bere dove non si muore. Dove scorrono... Volevo bere dove non si muore. Dove scorrono i fiumi della stirpe. Al modo del cinabro celebrare un ideale mistico e lucente. Scabro, come una vetta da scalare. Un liscio ghiaccio che carezza dentro, la tigre mai domata del tormento. E non avrei dovuto tormentarmi. E non avrei dovuto mai sperare. Cioè, sono versi veramente, bene, guarda... Cioè, bellissimi, cioè, la conflittualità stessa che poi si vive da giovani, quando si vorrebbe fare tutto e poi a volte magari ci si trova di fronte a quel primo sconforto di non riuscire, pur si vuole, pur si tenta, eppure c'è la gioventù che impera, che è forza, che è vivacità, che è gioia di vita, eppure c'è anche l'altra faccia della medaglia. Questo ragazzo qui, che è quello appunto romantico, questi versi che ha letto... Georges Laurent. Ecco, questi versi che hai letto, piacciono anche a me e possono sembrare retorici, ma io immagino, io li ho anche conosciuti dei ragazzi così, questi che fanno l'alpinismo eroico, questi che c'hanno la testa e lo spirito pieno di ideali appunto di ascesa, ecco, perché per loro l'alpinismo è un simbolo di ascesa. C'era un mio amico che era così, che purtroppo è morto anche lui, si chiama Omar Vecchio, che mi diceva che l'alpinismo è l'unica arte marziale occidentale. Ed è anche vero, no? E quindi un ragazzo così si esalta, c'ha bisogno di ideali, va in alto, eccetera, e poi invece crolla perché alla fine è un bambino, questo qua, per esempio, dell'episodio. Anche lui c'ha la figura paterna che l'ha soffocato, anche lui sogna più in grande di quello che poi possa veramente agire. Allora, mi ricollego a quello che tu hai detto, e facciamo un bel salto, facciamo prima... Un collegamento, poi facciamo un salto. Mi parli di un alpinista, bene, anch'io ho fatto alpinismo, anzi ho fatto sassismo, facevo free climbing, insomma quando ero giovane avevo combinato delle belle. E un giorno con un mio cugino, lui era molto bravo, anzi lui da solo, io ogni tanto lo seguivo, e poi una volta lui ha aperto una via nuova. Una via nuova che non c'era, cioè sulla Marmolada ce ne sono tante, lui ne ha aperta una che nessuno pensava si potesse aprire. E però, ecco, dove sta il punto. Alla fine, dopo tutto questo sforzo, con quello che tu mi stavi descrivendo di questo amico alpinista, cioè di questi ideali, di questa forza, lui ha messo il nome a questa via, perché chi apre una via ha diritto di metterci il nome, l'ha chiamata Teresa Orlowski, che è una pornostar. Anzi, era una pornostar. Sì, allora, è stata, per me, quando mi ha detto che l'aveva chiamata Teresa Orlowski, così, proprio, semplicemente... Per me è stata come una rivelazione, perché ho sentito la differenza fra lo sforzo estremo che lui aveva fatto, il rischio che aveva preso, e l'estrema ironia di buttare via tutto e dire, si chiama Teresa Orlowski, quindi proprio denigrando lo sforzo che aveva fatto. Allora ho pensato che forse l'ironia è un'arma che noi abbiamo, che possiamo usare per impedire a noi stessi di crederci troppo, di prenderci troppo sul serio. Sei d'accordo? Sono d'accordo, però bisogna vedere anche i contesti, perché può essere anche, sono d'accordo in generale, ma magari uno che fa una grossa impresa e poi siede sopra, proprio taglio anche l'ironia, bisogna non prendersi troppo sul serio, però non bisogna neanche avere l'alibi di buttare tutto in ridere, ecco. La vedo un po'... No, però l'ironia non è... Grosso, però vai a sapere se gli è mancato un pizzico ancora di coraggio per dire veramente io ho scalato questa vetta, oppure se ha voluto ripiegare, non so, è un discorso molto complesso. Sì, è assolutamente molto complesso, però mi piace questa idea, perché non aveva mai negato lo sforzo, mai, cioè non ha mai negato. Non credo fosse stato un neofascista, perché invece... Sì, no, non credo. Loro, eh. Non credo, è proprio questo che manca, ma manca da una parte o dall'altra. Io credo che l'ironia ovviamente è un'arma, però ovviamente essendo un'arma ha due facce, cioè può far male e può aiutare, può difendere ma può anche offendere. Allora è chiaro che io vedo l'ironia in questo caso come difesa, non come offesa. Ecco perché. Senz'altro. altro. Però appunto se c'è in questo universo dei giovani che ho dipinto io non ce n'è tanta di ironia. No, non dico nei miei versi, nel mio scrivere, ma quel tipo di ragazzi lì, non, uno che si prende troppo sul serio, quell'altra che è devastata dalla vita nel terrorismo nero, l'ultra poveretto proletario senza cultura, senza niente, che tutta la sua vita è l'Inter e il branco. Certo. E dove c'è lo spazio per l'ironia? Già l'ironia presuppone un po' di distacco, un po' di pensiero critico, credo, poco orizzonte, vedo qui dall'alto, se la forza si annega nel furore. Magari anche non per colpa loro, però. E poi non è storia di ieri, non è solo dei miei tempi, per questo io dico che i nostri tempi sono anche adesso, perché l'orizzonte è angusto. Sì, adesso leggo dei tuoi versi. Sì. Poco orizzonte, vedo qui dall'alto, se la forza si annega nel furore. Io che pensavo ad un mondo migliore, o meglio, a un ideale di fulgore, riconosco il tamburo nelle tempie di questa gioventù, ma non il timbro. Strappare gli striscioni del nemico e basta, è azione senza dimensione, la fede per la fede senza storia, non è vero alimento del valore. Mi sono a vuoto come un simulacro, non c'è l'eroe che dentro sa bruciare, e basta. Non mi piace predicare. Tanto bruciamo tutti, e siamo bruciati. Eppure è sempre la vita che preme. Sono onorata di avere un così fine dicitore. Sì, questa è la ragazza fascista chiamata, stimolata dalla poetessa a commentare cosa ne pensa di questi giovani ultra, che in effetti se tu vai allo stadio oggi vedi che hanno su un braccio il tatuaggio della svastica, sull'altro hanno Che Guevara, cioè, e lei che aveva questo suo ideale politico, a parer mio bruttissimo, però netto, lei stessa scuote la testa di fronte a questa così questo gran calderone di questo mondo del calcio che è molto violento. Io mi sono documentata anche perché io penso di essere stata allo stadio in vita mia due volte, però mi interessava questa cosa, allora ho letto dei libri, ho cercato su internet, ho visto cose che non immaginavo ed ecco il risultato. Che poi mi fa piacere perché chi sente o legge questo libro mi dice ma cosa c'è di autobiografico, ma sai così, sai cos'ha, pensano che io abbia avuto dei trascorsi di estremismo nero, invece è la cosa più lontana da me che possa esistere, ma vuol dire che ho fatto una biografia in terza persona. Ne leggo ancora. Sì. Certo, San Siro. E lì la curva trema quando tiriamo fuori gli striscioni, quando si va all'attacco dei nemici, quando si batte come un cuore solo. L'Inter per me è tutta la mia vita. E lassù allo stadio è come giù con Toro, lui corre e sfoga tutta la sua gioia, io urlo e butto fuori il mondo boia. Sono le nuove ideologie, no? Ne cadono alcune, sono le nuove ideologie, ne cadono alcune, ne risalgono altre. Sì, questa non so quanto salga, però è vero, un fenomeno in amplissima diffusione, appunto l'ho letto, perché poi io non è cioè sono dei mondi a parte che uno normalmente non se ne accorge, invece sono diffusi, ce n'è tanti, questa cosa del fascismo, diciamo, di questa ideologia, che poi di fascista c'ha solo anche i simulacri, gli slogan, le cose, questi ragazzi non conoscono la storia, è solo una voglia di buttar fuori, come dice questo, io urlo e butto fuori il mondo boia, una voglia di arroccarsi, di difendere il territorio, questi pezzettini, queste fasce della curva degli stadi, allora il loro territorio, fare il discorso del branco, della tribù, quello è il nemico, la bandiera, il colore, è anche una scusa per sfogarsi, per picchiare, ma evidentemente sono energie non canalizzate, che non sanno dove andare, cioè tutto questo è molto triste, fa anche paura, però insomma è sempre la vita che cos'è che dice la ragazza, tanto bruciamo tutti e siamo bruciati, ma è sempre la vita che preme, vitalità al grado zero, pericolosa ma perfino commovente, naturalmente per un personaggio dalla testa bacata come la poetessa. Insomma, ecco la poetessa. Ma vediamo il poeta, ora dove si colloca? E io poeta? Sono stata affascinata nel mondo. Nel libro. E io poeta? Ah, è un poeta. Beh, sì, questo è bello, lo leggo io? Dai, ecco, sì. Vai, vai, vai. Leggilo tu. Io. Lo leggo io. Vabbè, ma lui legge così bene. Vabbè, lo leggo io, dai. Vai. E questo è, diciamo, la chiusura del libro, dove poi ci sono quattro poesie, e appunto una, l'ho letto prima, una parla dei cardi, del tram, delle bestie, del vino. Sono delle poesie mie che già avevo, che le ho messe come saluto. Quindi, dopo tutti i personaggi, in un modo che io immagino classico, parla il poeta. E io, poeta, sono stata affascinata dai vostri fuochi neri di rovina, dalle cinghiate sopra i labbri rotti, vi ho immaginato e dato le parole, le passioni perdenti, le ho sentite a schiaffo, voi ragazzi di fragore, corrosi dalla voglia di riscatto, di ognuno contro tutti e tutti contro, quei genitori che non han capito la guerra dentro come divampava, le colpe che procedono dai padri, da millenni a ritorcersi sui figli, e madri timorose e padri biechi, i macellai con la mannaia in mano. Io, poeta, ho ascoltato le parole di cosa avete fatto della vita, la sola gemma che ci è stata data, se l'avete onorata o dissipata. Io della mia non saprei cosa dire, se non le cose che ho già scritto prima, che ho guardato Niguarda e la mia mamma, i gatti, il cielo nero di Milano che certe volte è bianco e certe grigio e certe azzurro da far male agli occhi, il cielo del futuro e del passato, e in ogni sassaiola sui ginocchi, in ogni voto brutto preso a scuola, in ogni sfida persa, in ogni pugno tirato al muro, in ogni temporale, in ogni vetro rotto, in ogni muso tenuto duro verso il gran finale che è comune per tutti, sopra il treno piombato che va dritto in mezzo al niente, lungo ogni ferrovia sempre si sente nero e ritmato il vostro tetro coro. Voi vivi, voi borghesi, voi distanti, voi padri e madri, voi giorni passati, siete la fossa dove abbiamo buttato i soli cuori che ci avete dato. Ecco. E il poeta si fa presente. Che fa il poeta? Il poeta che fa? Il poeta poi li saluta. Il poeta dice sempre ciao. Voi che avete letto il mio romanzo dei rumeni, anche lì finisce con ogni episodio finisce con la parola ciao, e anche questo è uguale. Dice: io ho scritto versi, tanti e tanti, e con loro vi voglio salutare. Quello di prima, con i miei cardi, tram, le bestie e il vino, la vita che mi basta non mollare. E il poeta va avanti perché ha questo dono di vedere, e gli piace raccontare, e così, senza... Non lo so, sinceramente io non lo so cosa dire, sono anche in controtendenza perché io non sono una persona particolarmente costruttiva, devi fare il progetto, devi scegliere, così. Io vado avanti come un treno, cerco di esprimermi e poi boh. Beh, però questo treno di cui parli, che sei tu, sì, che cerchi di esprimerti... Sì, dei geni, è vero, sì. Ho qualche idea fissa. È vero, ma... Cioè, siccome mi sembra di capire da questa cosa che ho letto, tutte le cose che abbiamo fatto fino adesso, che sì, c'è energia, fondamentalmente si parla di energia, che in questo caso è incanalata in una direzione che uno può condividere o meno, però si parla fondamentalmente di energia, ed è la stessa energia che mette anche la poetessa nelle sue poesie, però è incanalata da un'altra parte. Allora, quello che mi sto chiedendo, ecco perché non voglio riprendere il discorso dell'ironia, lo lasciando da parte, però quello che volevo chiederti è come finisce questa storia, o meglio, si riesce alla fine a trovare un percorso a questa energia, si riesce a dire d'accordo, l'energia c'è, si sfoga in tanti modi diversi, ci sono dei modi migliori o peggiori al di là delle ideologie, si riesce a trovare qualcosa, la poetessa riesce a dire qualcosa, o la protagonista, la ragazza fascista, riesce a trovare una sua dimensione, o va a finire come in un periodo romantico, perché il romanticismo era questo, era grande forza verso il nulla, purché fosse un fuoco d'artificio, purché fosse pieno di colori. Come finisce? È una domanda interessantissima. Sì, è vero, il treno che va verso il nulla, e su questo treno ci siamo tutti. E però bisogna vedere appunto cosa uno se ne fa di questo viaggio. Diciamo, qui la poetessa dice tenere alta la bandiera dei morti, parlare, tentare di incarnare bellezze incommensurabili in questa ultimissima poesia che chiude. e parla di spirito. Tutto questo io lo chiamo il mio spirito, cioè un atteggiamento sì abbastanza eroico, devo dire la verità, ma come scrisse Nietzsche, è un mio amico, esorta a superare le secche del nichilismo. Ecco, anche se questi ragazzi qua si pascono di Nietzsche, quelli che leggono, io non lo so se poi fare la scelta della guerra armata o comunque dell'autodistruzione sia un vero superamento del nichilismo. No. Persino Nietzsche poi si è autodistrutto, quindi certo. Evidentemente è una spirale anche fatale, non si è così padroni delle proprie scelte, però secondo me diciamo la rinascita viene da dentro, cioè è uno spirito che si apre, perché anche la violenza non è una bella scelta, perché c'è l'energia ma si ripiega su se stessa, porta solo a fare una brutta fine. Invece portare questa grande energia primaria, questo fuoco, verso qualcosa di più alto. Anzi, io finirei anche con una parafrasi che la dico sempre appena posso, ce la metto in mezzo anche adesso, la prendo da lì, che diceva: l'unica differenza fra me e un pazzo è che io non sono pazzo. E allora io dico: l'unica differenza fra me e un terrorista è che io non sono terrorista. Ah, però diciamo, non possiamo che essere d'accordo con tutte e due, perché è proprio così. L'unica differenza fra me e un pazzo e un terrorista è che non sono né pazzo né terrorista. Ecco, possiamo spartirci a metterne tante. Sì, possiamo veramente metterne tante. L'assioma è abbastanza. Però allora capisco ancora di più quello che diceva il tuo amico alpinista. Cioè questa definizione dello scalare, del free climbing, come l'arte marziale occidentale. Perché in effetti l'arte marziale è fondamentalmente controllo dell'energia. Certo. E quello dell'alpinista è fondamentalmente controllo delle tue forze, perché le devi dosare, perché quando sei a 5 metri e sei veramente finito, o anche a 10 centimetri e proprio non ce la fai più, mancano ancora 10 centimetri e poi vai giù, e quindi è il controllo, devi sempre essere controllato, controllare le tue paure, controllare le tue emozioni quando scali, quando cadi, insomma. E anche quando scrivi le poesie, sì. Anche quello, certo, è un discorso di grande sensibilità, di grande ispirazione, però per scrivere una poesia bella bisogna sempre avere in mano le redini, sdoppiarsi, cioè da una parte essere posseduti dalla grazia, dall'ispirazione, dall'altra controllare ogni virgola. Sì, è un bel esercizio. E forse bisognerebbe insegnare proprio questo, il controllo. Il controllo. Io ce l'ho una scuola di poesia, ma qua a Milano però. Ah, beh, devi trasferirti, dai, fai anche un viaggio itinerante. Magari, guarda, chi lo sa, io ci penso. Bene, allora, intanto, però, siccome te l'avevo già annunciato via email, abbiamo preparato una sorpresa. Sono qua. Quindi, vediamo chi ti ricorda o che cosa ti ricorda quello che sta leggendo il nostro George, quindi ascolta. 26 agosto. Oggi si preannuncia una giornata molto dura dal punto di vista dello sforzo fisico. 32 chilometri che includono un'arrampicata sul Monte Irago fino alla Cruz de Hierro, a 1500 metri di altezza. È una discesa spacca ossa dall'altra parte. Esco che è ancora buio, insieme a un gruppetto fornito di pile elettriche. C'è un ragazzo di Firenze molto gentile, Martino, che quando mi vede in difficoltà mi aspetta facendomi luce. Meno male. Si procede alla cieca, per un po', fra terra e radici, salendo sempre, ma poi l'aurora comincia a buttare fuori i suoi raggi rosa e ho il dono di assistere alla bellezza suprema dell'alba e montagna. E poi vai, sono da solo adesso, il gruppo di partenza si è sgranato. Forse la solitudine è, non dico la migliore, ma l'unica modalità per godere appieno degli spettacoli delle altezze. Bisogna raggiungere la Croce di Ferro, che è un antico monumento, forse di origine pagana, impressionante nella sua essenzialità. Una modesta croce di ferro sulla sommità di un palo di legno irregolare alto 5 metri, che svetta sottile nel blu del cielo, piantato sul cucuzzolo della vetta. Ai suoi piedi, da tempo immemorabile, ogni pellegrino getta una pietra, alla quale lega, nel pensiero, un voto, una speranza. Il risultato è un monte sul monte, una piccola pietraia che si innalza su una grande pietraia, carica dell'umano desiderio di alleviare le proprie sofferenze. Si cammina ancora un po' e poi improvvisamente comincia la discesa. Ripida, sembrano cascate di terra, La pendenza porta ad andare velocemente. Io vado, vado e vado senza potermi fermare. È quasi una frenesia, aiuto! Il cielo intanto si oscura e poco dopo si scatena un acquazzone estivo. Rabbrividisco bevendo un caffè nei rifugi di Mangialin. Un eremo di legno piccolo e spartano gestito da un tipo singolare che si proclama l'ultimo dei Templari. Vi trovo Martino, il bel ragazzo di Firenze identificato per la sua somiglianza con Gesù Cristo. Magro, barbuto, sognante. Si arrotola una sigaretta guardando il vento. Così come è venuto, il temporale se ne va, e dopo altri interminabili 15 chilometri a scapicollo, nei quali mi congratulo con le mie ginocchia per la buona tenuta, eccomi a Molina Secca, una tappa di passaggio per arrivare finalmente a Ponferrada. Questo Molina Secca è un posto un po' turistico, ma piacevole, dove il fiume Meruelo forma una piscina naturale in cui molti si ristorano facendo il bagno. Mi fermo un po', bevo qualcosa col mio gruppo, a ogni tappa si ritrova, ma il bagno non lo faccio. A me le acque dei fiumi hanno sempre fatto un po' paura. Allora, no, se vuoi possiamo proseguire. No, non lo so, dite voi, è bello, che libro è? Non lo so. Non lo so, beh, io lo so, e infatti sempre questo mio amico che purtroppo non c'è più perché ha avuto un incidente alpinistico sul K2, siccome lui fa le scalate e io faccio i pellegrinaggi, e questo libro infatti è Sola sul cammino, Sola sul cammino. È la storia del mio pellegrinaggio a Santiago di Compostela, e lui mi diceva tutte le cose acute, che fare questi cammini di 800, di 1000 chilometri è come fare una scalata in orizzontale. E non lo so se George è d'accordo, che l'ha letta così bene. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Beh, perché ci sono anche le ascensioni, dai, in orizzontale. Beh, vabbè, quelle semplici sì, però... la scalata in orizzontale, sdraiarsi in verticale, tutto. È veramente così, insomma, la vita entra dai piedi, secondo me, quindi è tutto vero, lì. È vero, sì. È vero e bello. È vero e bello. Tant'è che una cosa bella è una prova che è vera. Questo anche... è una, se siamo sulla dimensione sottile dell'autentico, se no siamo nella superficialità, anzi più è bella e più è falsa tante volte. Invece se siamo alpinisti di noi stessi, così, se veramente è bella, allora sai che sei sulla strada giusta. Eh sì. Io sono convinto che Chetwin avesse ragione quando diceva che in realtà l'uomo non è un animale stanziale, anzi è un animale che è deve continuamente peregrinare, tant'è che i bambini, è vero, piangono sempre, poi una la prende in braccio e comincia a camminare, se mette al collo, basta, non piangono più. Cioè, è veramente tutti i bambini del mondo, tutti quanti, dal primo all'ultimo, quando piangono, se uno se le mette sulle spalle e comincia a camminare, basta, non piangono più. Beh, insomma, questa è una cosa carina che aveva scritto Chatwin, e mi fa pensare che noi siamo destinati a viaggiare, che il viaggio è poi anche il tema centrale, proprio il perno, della trasmissione che stiamo facendo adesso con te di Bruxellando, è il viaggio. Viaggio come movimento in qualsiasi direzione, non solo movimento fisico, perché a volte non si può, perché lavoriamo, eccetera, però sempre in movimento, movimento di pensieri, di idee, insomma, tenere il corpo e la mente allenati al viaggio, al cammino, a peregrinare. Ecco, tu dicevi quale può essere una strategia di salvezza, questa sicuramente lo è, anzi non una strategia, una realtà. Anche le storie, anche scrivere, anche guardare e raccontare, testimoniare, tutto questo è sempre un viaggio. Sì, sì. Sì. Io sono assolutamente convinto che il viaggio possa salvare, perché il viaggio fa incontrare le persone, fa incontrare altre idee, fa vedere altre cose. Veramente, uno che viaggia ha sempre gli occhi sgranati, volente o nolente ha sempre gli occhi sgranati. Può farsi passare sopra le cose per una volta, due volte, ma se continua a viaggiare prima o poi il mondo gli esplode in faccia in tutta la sua bellezza, in tutta la sua diversità, e automaticamente da solo le cose si mettono a posto. Non so com'è, però per me è stato così. Sì, anch'io sono completamente d'accordo. Bene. E che dire? Beh, la sorpresa mi ha commosso, io non era da tanto, l'ho scritto 10 anni fa. Sì. L'abbiamo ritrovato, insomma, grazie anche alle nuove tecnologie che ci permettono, insomma, di poter tornare indietro e trovare facilmente un oggetto, e sono stata veramente felice di leggerlo. Poi Giorgio ha scelto questo passo attinente proprio alle nostre tematiche di questa sera. Quindi cosa bolle in pentola per il futuro? Guarda, allora, prima di tutto però mi corre il dovere di fare una citazione che stavo dimenticando, sì. Mi sarebbe molto dispiaciuto. Questo libro, Canto di una ragazza fascista ai miei tempi, edito da Transeuropa, che è una un'ottima edizione che sta venendo fuori davvero bene, che ospita molti giovani, e per una collana che si chiama Inaudita, che vende allegato al libro, cioè allegato al libro c'è un CD di un altro artista. E allora, curiosamente, e ben trovato, il mio si chiama Canto di una ragazza fascista ai miei tempi, e c'è il CD di Davide Ciromini, che è un bravissimo fisarmonicista e cantautore, che si chiama Ballate di fine comunismo. Ecco, non volevo fare uno sgarro a Davide perché non se lo merita, perché il libro è bello anche per via del suo CD. E poi cosa bolle in pentola? Vabbè, io ci tengo moltissimo alla mia scuola di poesia che vi ho menzionato prima. Non è un libro, ma è un frutto di un lavoro. È un viaggio, che io faccio da anche tanti quello. Anni. È un'azione veramente di resistenza, non so come dire, magari ve ne parlo quando vengo lì. E sì, poi, ci contiamo. Non so, poi mi piacerebbe scrivere un manuale di scrittura poetica, appunto travasandovi tutta l'esperienza dei miei corsi. Mi piacerebbe scrivere un bel romanzo lungo, ma non ho tempo. Ammiro tanto, ho letto, proprio l'ho finito ieri, un romanzo che si chiama Pozzo Romolo, di un certo Luigi Romolo Carrino, che io non conoscevo, un ragazzo di Napoli, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, ci sono un sacco di cose belle da fare, certo ci vuole un po' di concentrazione, un po' di tempo, non è facile. Io per fare questo poemetto qua ci ho messo 3 mesi, che alla fine forse non è nemmeno tanto. No, non è tanto, infatti. 4 mesi. E vabbè. Beh, puoi sempre cominciare. Tanto perché meglio in decasillabi mi vengono bene, mi vengono naturali, mi viene più facile scrivere in versi che in prosa perché va da solo. Però invece i rumeni ci ho messo 3 anni. Così, non si può sapere. Comunque, insomma, ben presto ci risentiremo. Bene. Potremmo farci tutti così contagiare dal morbo di Isaac Asimov, che ne ha scritti di 500 di libri, insomma. Magari, guarda. Chissà come faceva veramente. Vabbè, di certo non andava in ufficio. Questo di sicuro. È già invece una cosa che io faccio e vabbè. Ma se, ognuno ha il suo destino, bisogna essere sempre alchimisti, no? Dal piombo deve venire fuori l'oro e basta. Assolutamente, sì. Guarda, assolutamente. Allora, noi siamo stati quindi davvero felici di averti riavuta nostra ospite. Beh, restiamo in contatto sia per i tuoi lavori futuri. Con Facebook, con tutto, è una cosa stupenda. No, effettivamente sì, è fantastico. E in bocca al lupo per la tua prossima presentazione a Milano il prossimo 16 aprile, se ricordo bene. È vero, me ne dimenticavo. Il prossimo 16 aprile alle 20.45 mi pare. Sì, alle 21, 20.45, 21, sì, in un posto a Porta Romana, via Curtatone, ma lo diciamo a Bruxelles, va bene, via Curtatone 19. A noi Milano siamo ascoltati alle ore 21 del 16 aprile, venerdì. E quindi faccio una lettura scenica, cioè la lettura integrale accompagnata dal mio amico violino clandestino, che tanto per cambiare è un musicista rumeno. Ecco qui, quindi insomma, noi invitiamo tutti coloro i quali ci ascoltano da Milano, e sappiamo che sono tanti, quindi a partecipare a questo evento. Noi invece di Brussellando speriamo di riaverti prossimamente in radio e quanto prima invece in libreria qui a Bruxelles per una presentazione, poi vedremo insomma di quello che parleremo. Quindi ti ringraziamo. Grazie a voi tantissimo, grazie. E a prestissimo. Grazie infinite. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ne avevamo parlato a inizio serata di questa nave carica di cultura che partendo da Civitavecchia raggiungerà Barcellona per la prima crociera letteraria, con partenza il 21 aprile da Civitavecchia e con arrivo il 22 aprile a Barcellona. Il giorno dopo, il 23 aprile, si festeggia la giornata mondiale del libro, nonché la festa di San Giorgio per il nostro Giorgitto qui in studio. Immaginate che è un'iniziativa dove parteciperanno Valerio Mieli, Valeria Parrella, Roberto Riccardi, Brunella Schisa, Beppe Sebaste, Franco Matteucci e tanti altri, i quali poi avranno la possibilità quindi di gemellarsi, se vogliamo, con rinomati scrittori spagnoli, tra cui Maite Carranza, Paul Faner e Marc Passoro, insomma non me ne vogliano gli amici spagnolo. Quindi questo modo simpatico per sviluppare conoscenze e amicizie basate sulla comune passione per la lettura. Una volta approdati al porto di Barcellona, i libri saranno trasferiti in una sorta di isola italiana sulle Ramblas. Quindi le Ramblas, come saprete, i celebri viali della città catalana. Il programma poi continuerà nelle giornate del 23 e del 24 aprile nelle sale dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Quindi gli scrittori incontreranno anche la numerosissima comunità italiana in Spagna. Per gli amanti di letteratura e viaggi, per tutti coloro i quali volessero, se la sentono insomma di aderire, c'è ancora tempo. Immaginate che finora sono stati venduti più di 1000 biglietti, ma ci sono ancora disponibili una cinquantina di cabine. Per quanti volessero saperne di più, fatevi un giro sul sito della compagnia Grimaldi, che mette a disposizione l'imbarcazione e si può verificare la disponibilità. E l'evento invece è organizzato da Agra, l'editore di tuttilibri.it. Quindi noi l'iniziativa sembrava effettivamente interessante, si parla quindi soprattutto poi di libri e di cultura, è anche un omaggio alla nostra Imola che è già rientrata a casa per questa pausa pasquale. E per restare in tema di Pasqua abbiamo i mercati di Pasqua che a Bruxelles si stanno diffondendo al pari dei mercatini di Natale. Consumismo, però paese non che vai, usanza che trovi, vabbè. Sai? È un'usanza nuova o una tradizione? Ma sai che io credo che sia un'usanza nuova? Anch'io ho qualche idea. Qualche sospetto, però sai. Sì. Comunque ci sarà questa possibilità proprio alla Clinique Saint-Jean, Boulevard du Jardin du Botanique a Bruxelles. D'altronde, insomma, per quanti restano qui, che non vanno in vacanza o che come noi non rientrano in Italia, questo mercatino, immaginate, è iniziato il 3 marzo e finirà il 1 aprile dalle 8.30 alle 18, invece il sabato dalle 13 alle 18. Tutti sono i benvenuti, anche perché, come diceva il mitico dottor Adams, Patch Adams, il sorriso, insomma, è importante soprattutto per quanti in taluni momenti si trovano soprattutto in ospedale. Quindi, insomma, George, tu nell'uovo di Pasqua che cosa ti piacerebbe trovare? Allora, io nell'uovo di Pasqua ho già trovato qualcosa. Mi hanno fatto anch'io. Ah sì? Cosa hai trovato? Puffo quattro occhi. No, io devo dire invece, questa cosa la volevo dire, ne prendo adesso. Hai l'occasione, dai. Ne ho facoltà. Dunque, quando ho cambiato lavoro recentemente, mi hanno chiesto così, mi hanno fatto un regalo, è il regalo più bello che ho ricevuto, a parte qualche qualcuno ha voluto comunque darmi qualcosa, però hanno fatto una cosa che mi ha fatto davvero molto molto piacere, visto che parla di Alan Pash, e hanno praticamente raccolto i soldi e hanno fatto un versamento all'associazione senza scopo di lucro di Bruxelles, che si occupa proprio dei bambini malati. Dai. E sono i clown, clinic clown. Bello. Sono i clown che girano gli ospedali per far divertire i bambini. E quindi è stato fatto a mio nome, come mio regalo, un versamento a questa associazione. Sono stato estremamente felice, quindi questo per me è il mio regalo dell'uovo di Pasqua, anche bellissimo. Se un po' in anticipo, sì, veramente bellissimo. E beh, tanto come direbbe qualcuno, potrebbe essere Pasqua tutto l'anno, quindi insomma, sì. bravo. Caccia agli uovi al MBMA. Che cos'è l'MBMA? Beh, certo, è il museo di Bruxelles del mulino e dell'alimentazione, incredibile. C'è un mulino a vento in piena Bruxelles. Infatti, in occasione della festa di Pasqua, il museo del mulino e dell'alimentazione organizza la sua seconda caccia all'uovo all'uovo di cioccolato nel parco del museo. E quindi, ecco, tutti sono invitati a partecipare a questo avvenimento, grandi e piccini. L'attività, che è aperta a tutti, comincia alle 2, però potrete dopo scoprire anche l'universo delle spezie attraverso l'esposizione temporanea Le Spezie. Beh, l'indirizzo è il Museo di Bruxelles di Mulino Alimentazione, Rue du Moulin, quindi la strada del Mulino a Vento, bellissimo, 21 a Ever. Per la tariffa piccolissima, bassissima, di 4 euro, insomma, mi sembra una cosa molto divertente, anche quella di vedere un vero mulino a vento a Bruxelles. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, però ancora non era possibile visitarla, ne parliamo questa sera, il simbolismo in Belgio. Finalmente l'esposizione è stata aperta lo scorso 26 marzo e fino al 27 giugno 2010. Tariffe abbastanza modiche, a partire da 2,50 euro e fino a 14 euro, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, chiuso soltanto il lunedì, e per quanti volessero ripercorrere quella che è la storia straordinaria del simbolismo, in Belgio in particolare, il momento è arrivato per poter riammirare, ritrovare le opere di Fernand Knopf, Félicien Rops o Jean Delville, ma anche altri meno conosciuti che tutto sommato hanno contribuito a quello spirito di fin de siècle di cui Bruxelles fu certamente una delle capitali più interessanti. E poi una cosa carina che avviene al Teatro La Montagna Magica Rue du Marais 57 a Bruxelles. Insomma, è aperto, lo dico adesso così ve lo ricordate, la domenica 28 marzo fino alle 3, quindi questa domenica, e poi invece continua fino al 2 aprile per le scolaresche. Mi sono sbagliato? Era domenica scorsa, oh ma santa pace, però adesso è aperta comunque alle scolaresche. Sì, sì. Annaggia, ho perso proprio il senso del tempo. Vedi, questo è l'effetto magico della poesia. Sì, io non so più dove siamo, che giorno è. Oppure del cicchetto pre-trasmissione. Ma non c'è nessun cicchetto, proprio purtroppo. Magari fosse il cicchetto, togliendo il cicchetto sarebbe a posto. Io qua dovrei togliere proprio parte del cervello. Secondo me c'è una parte del cervello che si mangia quell'altra. E quindi uno è occupato a offendere, l'altro è occupato a difendere, e nessuno pensa a quello che devo fare io. Dico solo, hai fatto troppo free climbing. Dai. Sì, c'è un filcamide neuronale. Comunque, l'ufficio delle storie è un ufficio fuori del tempo, con una finestra che si apre sulla notte che cade. E in questo ufficio quattro personaggi che stanno svolgendo un lavoro della più alta importanza: rispondere alle richieste pressanti di coloro che richiedono le storie prima di andare a dormire. E con una cosa estremamente colorata, cioè nera e bianca, il teatro del Tiglio, le teatro di Tiglio, plonge, cioè si immerge e ci porta nell'universo di questa fantasia e di humor che ci porta via, ci porta a pensare a delle cose fantastiche. E con queste silhouette inattese che appaiono sullo schermo, silhouette di tutti i tipi che si mescolano al cinema animazione, e si viaggia dal bianco al nero, dal più bianco al più nero, dalla neve alla notte, al giorno, insomma, passando per il chiaroscuro. Insomma, queste ombre giganti, o dopo le ombre giganti della foresta di Fifi e le silhouette traslucide degli sposini a Tour Eiffel, il teatro del Tiglio riviene ai suoi primi amori. Uno spettacolo di ombre e di musica dove comedianti, registi,